Ma in Italia questi sindacati a volte lavorano in maniera molto anomala. Sicuramente i diritti di tutti, dei cittadini e dei lavoratori vanno più che tutelati, però alla fine tutelando i diritti sono spariti a ben vedere. Quindi, e poi li vedi alla fine carriera, questi signori se ne vanno a fare i politici come molti, mentre invece il sindacato dovrebbe essere una cosa autonoma, super parte, che difende solo i diritti, non che va secondo le correnti dei partiti. Comunque non entriamo in questo campo che è molto scottante. Sì, già lo so, ma il discorso, io il sindacato l'avrei potuto capire, diciamo, negli anni 50, forse anni 60, ma non di più, qualche periodo degli anni 70, quando c'erano delle situazioni particolari, però cacchio, adesso attualmente, cioè tu stai andando a fare sindacalista come mestiere, non sei più un operaio, per dire, ero il leader di quel gruppo di operai, prendevo la parola io, prendevo i problemi, li davo al proprietario, al padrone, gli dicevo guarda c'è questo, la casa, l'officina, ci vorrebbe questo, ci bisogna tutelare questo, ormai a livello di sicurezza, tutte queste cose qua, e c'è lo Stato che interviene, per cui il discorso del sindacato non esiste più, una cosa è inutile, e tu vedi questi sindacalisti, io ne conosco persone anche molto vicine a me, hanno preso come mestiere, cioè tu vedi cosa diranno di pensione a questi qui, ti metti le mani in testa, poi di soldi, non parliamo di soldi, che teoricamente dovrebbe essere un rimborso spese, sono delle persone che prendono gli stipendi che neanche un politico in certi casi, quell'altra che è andata in pensione, quella, non mi ricordo come cavolo si chiama, quella ignorantona, quella donna che ha fatto una decina d'anni, 15 anni di cosa, di sindacalista, ma tu non vedi cosa ha preso in pensione quella, poi da lì magari ci passa il figlio, ci mettono in mezzo in politica il figlio, il nipote, il cugino, è tutta una catena, in Italia purtroppo siamo in questo ambiente qua, dalla politica ai sindacati, e purtroppo non ci sarà mai una via d'uscita, non esiste una via d'uscita qua. Beh sì, purtroppo il sindacato deve essere legato al lavoro, non legato ai propri interessi come molti, purtroppo anche io ne conosco, ma cioè questa gente va in pensione a 50 anni, non esiste, e poi fa andare gli altri operai anche con lavori usuranti a 67 anni, ma non esiste, ci hanno portato a una fatta totale di degrado dal rapporto lavoro sindacato, che non va bene, ci vuole più responsabilità, più educazione civica, tant'è vero che non mi risulta che ancora ci sia l'educazione civica nelle scuole, purtroppo, una cosa che veramente ci manca. E così, beh vabbè, ci siamo usciti, radio, macchine e politica, purtroppo. Non abbiamo ancora toccato e non lo tocchiamo perché ne sono stanco, il discorso del Covid, che è quello, cacchio, io vorrei abolire tutti i canali e in ogni canale televisivo non fosse altro che sentire questo cacchio di Covid, di quanta gente è contagiata, quella e quella. Vorrei cancellare tutto, azzerare tutto quanto e ritornare come ai tempi passati, 2 anni fa, che ti guardi un telegiornale, ma ci sono altre, ogni cosa c'è sempre questo cavolo di... E sono stufo, discussioni se non si parla altro con Covid, meno male non l'abbiamo ancora toccato. Abbiamo avuto degli argomenti iniziali parlando di strumentazioni, di macchie, e quello è interessante. Adesso anche sindacati e politica assolutamente non sono argomenti che mi piacciono, preferisco evitarli. Però abbiamo fatto degli argomenti, come è stato dai satelliti, a parlare così, ho fatto l'anno, di cazzo mi rompo le scatole, speriamo. Il problema è che c'ho poco tempo per sistemarla quella roba lì, devo entrare con gli strumenti per allineare di nuovo, si è pegata una staffa e mi ha rotto un po' le scatole. E dimmi un po', tornando a noi, tu metto il massacro, lo ricevi tu in diretta? Non ho capito l'ultima parola, in diretta cosa ricevo? In massacro, dove danno i bollettini del meteo, eccetera, eccetera? Beh sì, tecnicamente non ho problemi, né da apparati, né io arrivo fino a 3 giga come ricezione professionale. L'unica cosa è che mi dovrei decidere a mettermi una tenda, tutto lì, perché roba a mille, tipo la DSB, degli aerei, lo ricevo, problemi, solo che l'idea è un'antenna ce l'ho promessa. Cioè è un problema di tempo, io non so se capita anche a te, ma o quando ti capiterà paradossalmente di essere anche vicino alla pensione, anzi guarda anche Claudio, Claudio non entra perché c'è un casino di roba da fare e non è tutto campagna, ti posso assicurare, è anche altra roba, oggi c'è da fare quello, oggi devi andare in quel posto, domani devi andare nell'altro. Cioè, io guardo da piccolo, mi aspettavo di fare la vita proprio del pensionato da grande, cioè ti siedi un attimino, ti guardi il cielo, ti fai il tuo riposino, poi insomma ti godi il meritato riposo come veniva detto una volta. E invece no, io vai avanti, anche chi è pensione, sempre correndo, devo andare lì, devo andare là, devo andare su, devo andare giù. Cioè, la radio la tocchi una volta alla settimana, se ti va bene. Le tue passioni, quando le potresti toccare, non hai voglia perché sei troppo stanco. Non so se a te succede la stessa cosa. Ma tu perché sei già in pensione, Gianfranco? No, ancora no, me ne manca un pochino. Però me la sto temendo, capito? Se vado in pensione, poi c'ho ancora meno tempo di quello che ho. Che faccio a fare? Tutti questi apparati a cosa servono? A cosa serve mettere un'antenna satellitare? Ieri, guarda, mi ho fatto giusto una scansione per segnali digitali, eccetera. Poi mi dovrò controllare la radio perché non va come dovrebbe andare. Niente, me ne sono dimenticato, ho potuto fare. Un casino. Stiamo andando, poi anche il tempo ci si mette perché il tempo ti sta limitando molto. Qua ad esempio si può fare manutenzione sulle antenne, che sono tante, e non puoi uscire con temperature che segnano 45 gradi e stire su un'impalcatura tutta in ferro che ti scotta. Oppure non puoi uscire quando c'è quel vento che c'era con quella pioggia, è un suicidio. Quindi per una cosa o per l'altra ti rendi conto che rispetto a prima, che magari c'avevi più lavoro, però c'avevi anche più tempo da dedicare a queste cose, adesso non ne hai. E non dirlo a me, tu c'hai solo passione di radio, poi c'è la campagna dove abiti tu, mi immagino, io ne ho talmente tante di cose, mamma mia. A me una giornata dovrebbe essere di 48 ore, forse magari non basterebbe comunque, perché ho tante di quelle cose da fare che poi accumuli e poi magari non le fa neanche bene, perché dicevi me le faccio a quello lì, poi adesso stanno accorciando le giornate, aspettando il tempo che rinfreschi un pochettino, oggi ormai sono salito, purtroppo è successo poi sempre lì. Ho sistemato un po' con la stazione, ci ho messo 3 giorni per sistemarla perché ho fatto delle modifiche di posizioni eccetera, di ripiani, ma sembra così, già quelle lì ti fanno perdere un po' di poi devi fare altre cose eccetera eccetera. Oh, c'è da dire, è meglio essere impegnati che stare buttati al bar o seduti al circolo giocando a carte, quelle cose lì da me non succederà mai, però cacchio. No, neanche a me, perché io proprio al bar ci vado giusto a fare colazione, però insomma ricordare, cioè quando arriva una certa età non è più così semplice come 10 anni fa, 15 anni fa, ecco, le cose diventano anche più difficili. Io diciamo di hobby ne ho 2 o 3, uno è la bicicletta, l'altro è la radio, poi c'è anche qualche altro che non mi ricordo, perché riparare le cose sicuramente, sono un eccellente modestia a parte manutentore, però è un macello, è un macello. E qual è il tuo, non dico hobby, nel senso il lavoro tuo, di cosa ti occupi in particolare? Il mio lavoro è anche un hobby, perché mi occupo di informatica e informatica e se vogliamo anche legata ai sistemi complessi, ecco, cioè le apparecchiature di distribuzione di rete informatica. quindi tutta roba professionale. E quindi è anche un lavoro che mi piace, però siccome accorrono occhi buoni e la vista a forza di guardare gli schermi se ne sta andando piano piano, quindi è stancante, capito? Non tanto per il lavoro fisico, ma quanto per il lavoro diciamo degli occhi. Quindi fai anche riparazione di apparati, come si chiama, informatici? No, quello potrei fare per hobby, ma non me ne frega niente. Da me si parla di più che altro di configurazione, cioè programmazione allo stato puro. Quindi devi dire a certi apparecchi cosa deve fare e soprattutto cosa non deve fare, non fa fatto. Quindi anche forme di security particolari, non mi possono entrare oltre. Sì, sì, no, lo dico, intendo proprio quello di programmatore, diciamo, non riparatore di tipo come fanno adesso, mettimi una scheda video, una scheda audio, fammi quello, cioè tu cose molto superiori, parliamo di altri tipi più sofisticati, dai, per non dire altro. Diciamo che non è neanche programmazione, è configurazione, quindi dire alle cose le cose che devono fare e le cose che non devono fare. La situazione è un po' semplicistica, però è quella, capito? E purtroppo non ti danno neanche le persone che dovrebbero imparare, perché sono cose che, cioè, anche se ti mandano uno super specializzato, però se non vedi come si fanno le cose, nessuno è mai imparato, tutto lì. Ma vabbè, questo è un altro argomento scottante, meglio non parlare. Abbiamo fatto le 20:05, per me è orario di scappare, quindi saluto tutti, anche gli eventuali scottoni, anche Natalino che sicuramente l'ascolta. Roberto, ci sentiamo alla prossima. Ehi, dai, anche io rimango qualche minuto, adesso tra poco vado a mangiarmi qualcosa, dai. Comunque è sempre stato un piacere ascoltarti, ci sentiamo alle prossime. Saluto anche quali eventuali amici, io rimango ancora un po' in ascolto se c'è qualcuno. Ci sentiamo alle prossime, buon tutto, buon proseguo di serata, ciao Gianfranco. Sì, ti volevo chiedere una cosa, siccome c'è carenza di gente con l'HS, ma tu eventualmente in ascolto c'è anche l'HS? Sì, sì, no, io sono un grande appassionato, tutto posso ascoltare. Anche trasmissioni complete digitali? Digitale sinceramente non è ancora un argomento che mi interessa più di tanto, preferisco l'analogico e basta. Potrei farlo, ma non è una cosa che mi attira più di tanto, soltanto la satellite in digitale. Come sottovaluti l'HF e cosa ti perdi soprattutto? Va bene, dai, ne parliamo alla prossima questione. Ciao per adesso, buona cena, salve a tutti. Eia, ciao ciao. Eia, tutto bene, Betty, com'è? Che si dice? Sono appena rientrato io. Siamo di forza. Saltaburche, una cosa del genere. No, ho capito, ti scusa. Ho detto che sono appena rientrato, senti adesso. Penso che c'è mio figlio qualcosa. Ero lì a Saltaburche. Ah, sei un bel forte, capito? Addirittura. Sono basso. Forse arrivando. Come al solito. Non c'è più abituato alla radio, ok? Mi hanno regalato una TV mio fratello. Samsung, nuovo, roba nuovo. Praticamente c'ha delle strisce nel pannello LCD, ma si vede comunque. Cioè, ma qua ce l'ho io, se ce l'ho glielo cambio. Ed è anche di ultima generazione. Meglio, meglio. Bene, ma io me la devo comprare. Sto aspettando, va. Infatti questo ce lo scendo giù dalla 25. Questo lo mettiamo in camera da letto. L'altro che c'è in camera da letto è un 26. Ci lo mettiamo in cucina. Quello di cucina la stessa una delle strisciate del display, perché l'hanno danneggiato. E niente, già andava bene. Quando ricano sui ricarati è ancora meglio. Finite le ferie, sì. Ah, finite, diciamo che ne ho fatto conosco, non so, non mappa niente che adesso siamo lì, di nuovo, e si andava. Ho visto quel video, dove la parte? Con la piscina, dove era? Lì si chiama, il posto si chiama Occorucci, un bel campeggio. Poi io mi sono parcheggiato fronte piscina, ristorante, bar, la gente è molto ospitale. No, no, sono fatto bene. Ma gli altri gridi, molti anni vivi, tu ne hai capito che c'erano ospitali. No, no, tutto bene, tutto bene, anche perché sai, molte cose non le conosci dal posto, quindi all'interno sono andato a mangiare al ristorante e poi l'indomani invece mi hanno ordinato tramite il loro macellaio di fiducia delle costate, ma lui troppo muore. Vabbè, di lusso, va bene, sì. Non ti divesti a mangiare, ti divesti, lui. Vabbè, non per te, ma per i bambini. Sì, sì, ma poi il mare era bello. Ho portato anche il cane, quindi è andato bene, capito? Ma si è comprato il camper? C'è il camper? Sì, era un giorno. Come c'è il camper, c'è la casa mobile, cioè va bene, compreso di duccia, tutto c'è. Non le manca una virgola. Cosa vuoi di più? Va bene, va bene. Sì, quando uno lavora si può permettere tutto. Quando uno lavora non si può permettere niente. E così. Vediamo un po' se c'è il bombolino. Bombolino, ci sei. Sai che non vuoi. Ma io mi sto cercando dei documenti qua. Eccole qua, un'altra. Me le sto stampando perché sennò me le dimentico. Aspetta, devi stampa io. Pompa. Pompiglia. No, anche perché devo comprare delle cose in sospesa, quindi mi sto stampando le buste qua. Ma domani rientro al lavoro? Sì, dobbiamo finire lì a Punta Giglio, quindi niente, dobbiamo andare avanti. Quindi in Russia, che andava? Ce n'è, faccio fatica a trovare dei personaggi, tipo figure come Malavari, che sono già avviati, capito? Perché mi scrivono una mano, però sai, quando non sai chi chiamare e non sanno cosa dobbiamo fare, è difficile, capito, un po' il tutto. Ma io, va bene, il mio piccolo già mi sono sempre dato da fare, quello che posso fare, però purtroppo questa schiena se non la metto a posto, adesso vediamo, adesso se prima mi sistemo con il dentista, poi appena finisco lì, Tino, vedo un po', me li faccio le visite, vediamo un po', perché ho posso usare così, Vabbè, noi ci serviva del personale perché abbiamo preso un altro lavoro grande, quindi tra piazzare cordonato, tra l'altro ci serviva gente che si trova a fare un lavoro lì. Diciamo che è un manovale che si arrangi, dai. Che sa che tira un po' di quote, che riesca insomma a fare un po' di lavoro, perché se no è inutile che sei in due e poi sei strumenti che sei alla giura, non va bene. Ah beh, senza ombra di dubbio. Eccolo qua. Poi diciamo i documenti con in PDF, solo devo aprirlo per vedere cos'è. Vediamo qua, ecco, proviamo le due. Cos'è carrozza? Antonio, sono un po' senza sentirlo. Ah, Antonio mi sa che stava facendo delle visite, se non ero dovevo fare un intervento, non mi ricordo adesso, non me ne ricordo, come si dice, dovevo fare questo intervento, mi sa, non mi usaci, poi ha cercato, mica, non se ne capisce niente di questo tempo di merda. Sì, boia, la carità, grazie. Vabbè, ma adesso dovrebbe andare bene comunque, cioè dovrebbe stabilizzarsi. A quanto credo, arriveranno un bel ricordo. Sì, sì, sì. Ma come non è finito ancora? Ce n'è. Come si organizzano, solo che la scuola adesso è giochi di Gabriele che va a giocare a pallone, ne verrà difficile. Mi verrà difficile insomma andare là. E anche quello, se non c'è ogni giorno ce n'è, cazzo, ogni anno. Poi soprattutto tu che sei. Vabbè, che hai figli, ancora meglio. Facciamo sì che si può, poi vuol dire che rimane parcheggiato. Infatti si paga poco l'assicurazione, è vero sì. Sì, insomma già si paga, però ho pagato tantissimo in confronto per tutto l'anno, poi ho la simisione l'ho pagata intorno ai 270, adesso non mi ricordo. Però la possibilità di richiamare, cioè nel caso se dovesse fermare, se buchi, se trovano frenare, capito, queste cose qua. In qualsiasi posto dalla Sardegna? Cosa? Ho detto, in qualsiasi punto dalla Sardegna? Sì. Ah, buona sapessi. Buona sapessi. E non andava bene, va bene. No, ma anche se è privato, capito? No, è la casco, quindi è buona come assicurazione, va bene. Completa di tutto. Ma io non devo fare o ti butti o non ti butti. Ah, e beh sì. Eh sì, no, già è bello il campo, tanto che. Qua dove vuoi, senza problemi, ti parcheggi dove vuoi, no, però ti parcheggi in un punto magari, sai com'è, no? Con la gente di merda che c'è in giro. Ma io guarda, sinceramente, non ho avuto grossi problemi di. Ho avuto qualche problema più che altro per via del cane, perché non lo puoi tenere in spiaggia, però vabbè, ho risolto perché ho trovato dei posti dove posso portarlo, dove non mi fanno storie, sempre in un campeggio, per portare in spiaggia, per fare il bagno, insomma adesso ha 4 mesi ed è tra virgolette piccolo, quando diventerà grande è troppo ingombrante anche. Ah vabbè, ti sei pagato lo spiazzo così. Cos'è? E ti sei pagato il parcheggio o ti cazzo si chiama? No, quello mi conosco tra virgolette, ho pagato quello che c'era da pagare, però per via della notte, passiamo la notteria, ho fatto più volte, quindi ormai mi conosco e non farò soli, capito? E come si chiama? La piazzuola, così si chiama? Sì. E va bene, dai, già va bene. Già sono cose belle, sì, però sono cose brutte. Niente, io Antonio ogni tanto lo sentivo, adesso lo so da avrà impegni, capito? E niente, avrà i suoi impegni, e uscire, c'è caldo mica. Beh, lo sai che ieri notte ormai c'è anche freddo. Sì, e beh, di notte c'è sempre freddo, ma anche d'estate da marina capita, l'estate è piena di notte, ti ricopri un lenzuolo, giusto per dirtene una. La notte c'è freschetto, ma ora come ora io sento come di caldo. Sì, vabbè, anche qua va bene, però voglio dire, ormai dormendo lì in camera è un po'. Devi coprirti un po' più, vabbè io lascio sempre il fenestra aperto, quindi l'aria circola un bel, capito? Ma è normale che quella notte c'è sempre più fresco. Vabbè, quando diventerò ricco pure io lo compro il camper. Ma guarda, non c'è bisogno di diventare ricco, devo dire. Vabbè, un camper alla fine inizi a pagarlo 10, 12, 15 mila euro, meno c'è un camper buono. Aumenta. 20.000, 25.000. Aumenta. Ma è il tuo? Vabbè. Ma comunque se si trova quel camper, insomma, se uno non ha grosse, come si dice, non ha la possibilità di comprarsi un camper come si deve, vai, cioè, ci già lo trovi. Guarda quello di Giuseppe Tornado, cazzo, è bello veramente. No, non so cosa sia. Comunque io sono qua, intorno ai 20 non c'era niente di bello, quindi ho dovuto offrire la soglia. Ma la chiamo voi ti è piazzato, no? Sì, sì. Con la mia macchina, eh. L'ho utilizzato, sì. Sì. E vabbè, poi campionisti più o meno ce l'hanno tutti. Allora, mi ha accompagnato Giulio sino a Chiamanti Catassardo, sul tratto d'incrocio quasi di Santa Teresa, le curve poi l'ho perso perché lì era con la gonfia, lì a Santa Teresa non ce la fa arrivare. Chi ti ha accompagnato? Ti scusa, non ti ho sentito. Giulio, c'era Giulio, Claudio e Fabrizio Occhedigas. Ti ha accompagnato un bel pezzo, va. Dai, che mi devo cercare questi documenti, sennò poi non ce la faccio più a finire. Devo un attimo nel Quad X, poi se finisco in tempo magari trovo la chiamata, sennò ritieni salutato, vai. Ehi Atti, non ti preoccupare, vai tranquillo, adesso facciamo la roba, fa lo stesso. Se ci sentiamo dopo, ciao, alla prossima, dai, ciao a te. Ehi, ciao, ciao, ciao. Buonasera.